Oggi noi vogliamo parlare di un vostro servizio, una vostra invenzione che si chiama Dimmi. Più che il nome vorrei citare quello che voi avete scritto dopo, cioè trova tutto, chiama gratis. Sì. Queste sono un po' le due cose che appunto permette di fare Dimmi. È un motore di ricerca? Beh, è abbastanza assimilabile a un motore di ricerca, anche se poi in realtà noi andiamo più verso un concetto anche di directory per la ricerca appunto di aziende all'interno del panorama nazionale. Questo è il primo passo. Uno va su Dimmi, che è scritto con due Y, quindi sì, non con le I tradizionali, dimmi.it. Poi esiste anche una versione per la mobilità pensata per i telefonini, ma parleremo di questo dopo. Uno arriva sul sito internet, cerca cosa? Tutto? Cioè è vero quello che c'è scritto o in realtà poi sono le categorie sono limitate? No, no, assolutamente. Nel panorama delle aziende italiane noi diamo la possibilità di cercare qualsiasi azienda appunto che sia interessata a un aspetto piuttosto che all'altro, e il nostro utente privato ha la possibilità di esaudire qualsiasi sua necessità. Voi vi basate su un database che è piuttosto conosciuto, perché dietro al vostro motore di ricerca ce n'è un altro che si chiama Google, ma non solo. Sì, esatto, noi abbiamo questa sorta di partnership che ci permette di diciamo affinare la ricerca del nostro utente. In realtà poi abbiamo un database molto molto ampio, arricchito, andato attraverso tutta una serie di partnership e di ricerche nostre interne, e quindi diciamo la risposta che andiamo a dare è una risposta molto ampia e molto completa. Dimmi serve per cercare, ma questo appunto non lo offrite solo voi, esistono anche altri motori di ricerca, ma fa un passo successivo, cioè permette di chiamare gratis. Che cosa significa? Facciamo anche un esempio. Uno cerca un ristorante. Sì, nel momento in cui cerca un ristorante, per esempio, che sono a Milano, ha la possibilità di scrivere ristorante Milano, il nostro sistema gli effettua questa ricerca e gli dà l'elenco dei ristoranti su Milano, ordinati in varia maniera, secondo della ricerca di come è stata effettuata. A quel punto può entrare direttamente all'interno di un mini sito che noi agganciamo ad una delle aziende a noi affiliate, può diciamo approfondire tutte le ricerche che lui ritiene opportuno, e se poi vuole entrare in contatto con questa azienda può cliccare semplicemente sul link e andare a parlare direttamente con questa azienda attraverso un servizio che noi effettuiamo, che si chiama Chiama Gratis, che dà la possibilità appunto di parlare immediatamente con l'azienda, sia attraverso il computer se è dotato di cuffie e microfonino, oppure anche attraverso il suo telefono fisso o cellulare, scrivendo il numero di telefono a cui vuole essere ricontattato.